È con noi Claudio Piselli, il musicista Claudio Piselli, per parlare del suo progetto Jazz Viper Summoned Trio, che sarà in concerto a Palestrina il prossimo 19 luglio. Claudio, benvenuto e ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di avermi ospitato, ti ringrazio, sono molto contento di parlare del mio progetto qui da te. E allora cominciamo, dicci un po' di questa, di quest'idea. Allora, questa idea nasce, è un'idea recente che nasce appunto da questa voglia di portare avanti la passione nei confronti di un musicista che per me ha segnato in modo particolare il mio percorso jazz, che è Bobby Hutcherson, trafonista scomparso circa 2 anni fa, e l'ultima formazione che aveva, che mi ha molto entusiasmato, era appunto questa con Joe De Francesco organo Hammond, lui al vibrafono e alla batteria. Quindi ho voluto ripartire da qui, da questo punto, e creare un mio progetto con le mie composizioni, coinvolgendo dei giovani musicisti, andando un po' alla ricerca di un'energia fresca. E quindi ho avuto la fortuna di incontrare due musicisti eccezionali con cui appunto abbiamo formato il trio, che sono Vittorio Solimene all'organo Hammond e Massimo Di Cristofaro alla batteria. L'idea nasce comunque da una condivisione che vuole essere globale, diciamo. Mi piacerebbe portare avanti questo progetto ed estenderlo anche a formazioni quartetto. Proprio scritto la scrittura molto semplice, chiave standard, quindi la possibilità di coinvolgere, di immaginare questo progetto crescere, coinvolgendo anche altri musicisti, per me è un grosso desiderio, un grosso obiettivo, e quindi anche quello di rompere un po' tutti gli schemi che sono intorno oggi alla scena del jazz italiana, in modo particolare alle collaborazioni. È sempre molto difficile comunque entrare in determinati circuiti, come a volte ho sentito dire, suonano sempre gli stessi. Insomma, ho cercato di scrivere delle cose semplici, di impatto, immediate, proprio come chiave d'accesso ad una possibilità di collaborazione e quindi anche di apertura da parte dell'ambiente, che mi circonda, e di cercare appunto di coinvolgere, di attirare il più possibile le energie positive intorno a me. Quindi il mio desiderio è appunto quello di lavorare, di crescere continuamente, di coinvolgere anche giovani musicisti, l'energia è veramente tanta. E come succede poi del resto anche in America, se si guarda le formazioni Kenny Garrett e altri musicisti, spesso si ritrovano a scambiare musicisti, a prendere giovani talenti, a collaborare così. Secondo me è un'ottima idea. E quindi niente, io saremo sul palco di Palestrina di Vicoli del Jazz il 19 luglio a Piazza delle Erbe alle 21:30, carichi, inviperiti, come per riprendere un po' il nome del nostro progetto, che è Jazz Viper Hammond Trio. Non c'è nessun riferimento particolare alle vipere, che abbiamo deciso di chiamarci così, ma questo Vipers, comunque esistono anche altre formazioni di jazz tradizionali che si chiamano dei New Orleans, per esempio Jazz Vipers. Sì. Comunque è venuto fuori così È venuto fuori l'idea. così. Forse sono andato a vedere un po', perché mi aspettavo la domanda: perché vi chiamate Jazz Vipers? Ho scoperto una cosa molto interessante però sulle vipere, che in qualche modo le vipere non perdono mai la strada per cui tracciata dalle altre vipere, no? Si seguono comunque una direzione ben precisa. È un po' quello che alla fine vuole essere il mio progetto, che è un progetto non limitato a questa formazione, ma che vuole una grossa apertura, che si vuole aprire, essere un po', come dire, esportare quest'idea il più lontano possibile. Ok, un paio di domande. Per quanto riguarda i pezzi, dicevi, e pezzi tuoi, ma anche cover? Sì, suoniamo degli original di Bobby Hutcherson, che sono quelle che hanno in qualche modo segnato alcuni momenti della sua carriera, brani che sono diventati anche standard, che sono stati Little Peace Poem, uno per citarne uno, Little Peace Poem, e sono state scritte anche delle parole sulla melodia di questo pezzo, e suoneremo Head Start, che è un pezzo modale, una struttura AABA. Suoneremo ancora Highway One, tratto da un disco degli anni 70, e riproposto anche in altri dischi. Insomma, abbiamo anche altre cose. Teddy, che è un brano più attuale, una delle ultime formazioni che aveva, proprio con l'organo Hammond. E sì, quindi andremo a suonare delle composizioni dedicate a lui, proprio composte da lui, più composizioni invece mie, originali e in parte anche inedite, perché stiamo anche, tra l'altro, lavorando, abbiamo registrato il nostro disco e stiamo cercando ora una produzione, quindi. Ok. Oltre Hutcherson ci sono anche altri riferimenti musicali? Allora, come vibrafonista, sì, tantissimi, tantissimi vibrafonisti, in modo particolare Neil Jackson, per me anche per il linguaggio del jazz è il mio strumento, ma anche compositori che non sono vibrafonisti come Horace Silver, un pianista, John Coltrane o comunque Herbie Hancock, non soltanto per una stima musicale, ma anche per una vita che hanno segnato, che fa parte di loro, che a me è sempre un po' appassionato, perché oltre che il discorso del musicista di per sé, mi piace anche un po' approfondire che impegno queste persone comunque danno, che contributo danno anche nella vita sociale, che impegni, capito, proprio a livello d'azione, com'è. E questo è un po' l'obiettivo del mio progetto, che non vuole essere solo un progetto musicale, ma se vuoi anche un movimento di protesta per un determinato sistema. Un'apertura internazionale. Esattamente, sì, proprio perché comunque se non possiamo definire la tradizione del jazz italiana, ma sicuramente noi come musicisti abbiamo una tradizione così forte per cui possiamo essere molto competitivi. È probabile che non ci siano ancora forti delle determinate radici, ma musicalmente possiamo benissimo venire fuori. Quindi non dobbiamo aver paura del jazz, perché non ci appartiene. Ecco, tutto qua. Claudio, in chiusura, ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? Allora, sì, la mia pagina Facebook è Claudio Piselli, dove troverete appunto tutte le informazioni sui concerti e sul progetto dei Jazz Vipers. E poi potete cercare comunque un disco che sono molto contento del lavoro fatto di 2016, che è il mio primo album, che si chiama Now. Lo trovate in rete su tutti i canali, Spotify, eccetera, iTunes, per un'etichetta che è la 12 Lune Record, quindi potete ascoltare anche cose che ho fatto precedenti e pubblicate. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con il Jazz Vipers Hammond Trio, 19 luglio a Palestrina. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Piselli. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, arrivederci a tutti.